Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donnelly, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Europa 24. Partiamo da un tema delicato, infatti estendere la fattispecie di associazione mafiosa ed armonizzare la definizione di criminalità organizzata in tutti e 28 gli stati membri dell'UE fa parte delle richieste della Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio del Parlamento europeo. Ieri c'è stato un voto, 29 sì, 7 astensioni. Questa la richiesta, dunque, una gestione comune attraverso l'organizzazione e la condivisione delle informazioni. La relazione è stata firmata da Salvatore Iacolino di Grande Sud. Il testo sarà poi votato il prossimo 22 ottobre dalla plenaria di Strasburgo. E ora torniamo a parlare dei temi economici, naturalmente in declinazione europea, e in primo luogo il valore, o meglio l'impatto e la gestione di queste politiche di austerità. Austerità come causa di povertà? Ci sono parecchie fonti che sostengono questa chiave. Il dibattito in Europa è aperto. Sentiamo servizio. I ricchi saranno sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. Secondo un rapporto pubblicato dalla ONG Oxfam, l'austerità applicata in Europa per contrastare la crisi economica aumenterà il divario sociale. Entro il 2025, 146 milioni di europei potrebbero essere a rischio povertà, quasi un europeo su tre. Austerity is really causing a lot of pain. It's causing more poverty, more inequality, and actually l'austerità provoca più povertà, più ineguaglianza. Attualmente non sta poi risolvendo il problema del debito e del deficit. Per questo chiediamo ai governi europei di cambiare rotta e di affrontare il tema dell'ineguaglianza, poiché siamo convinti che ci possano essere alternative a queste politiche di austerity. Così Natalia Alonso, direttrice di Oxfam a Bruxelles. Di diverso avviso la finlandese Sari Essayah, europarlamentare del Partito Popolare Europeo. The reactions in Finland for austerity are not that strong than maybe in other EU countries because in Finlandia le reazioni alle politiche di austerità, dice la parlamentare, non sono state così forti come in altri paesi in Europa. Più che incolpare in generale le politiche di austerità, si dovrebbe pensare a tagli meno drastici ai finanziamenti per la sanità, l'educazione e il welfare, tagli che vanno a intaccare la vita delle persone. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Austerità che ha avuto impatti significativi anche per quanto riguarda la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze. A dare l'allarme è lo European Monitoring Center for Drugs. Credo che i tagli siano un segno della crisi, ma il dato più importante è che per la prima volta sta calando e non crescendo il numero di persone che usano droghe. Così al microfono di Cristina Carpinelli il professor Pino Arlacchi, eurodeputato, membro della sottocommissione diritti dell'uomo. Sentiamolo. Sono in diminuzione un po' in tutto il mondo, eccetto alcune isole significative che possono essere tranquillamente spiegate. E ora i paesi che guidano la diminuzione sono soprattutto l'Europa e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nel campo della cocaina, dove è avvenuta una riduzione di quasi il 70% dei consumatori, e l'Europa soprattutto nel campo della eroina. Le ragioni sono molto difficili da spiegare, ma sono legate in buona parte al successo delle strategie antidroga, soprattutto di quelle europee, basate sul recupero, basate sulle terapie, basate sul sostegno ai tossicodipendenti e sulla loro non criminalizzazione. Direi che alla fine tutti gli investimenti che sono stati fatti e anche la rete di solidarietà sociale che si è creata intorno a questi problemi, nel lungo periodo, dopo molti decenni di sforzi, hanno avuto un successo. Grazie a Pino Arlacchi. Bene, con questo abbiamo concluso questo appuntamento di Europa 24, che naturalmente torna domani. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.